Benvenuti e benvenute a questa nuova puntata di Slick Chick, che oggi sarà, ve l'avevo già preannunciato perché i più fedeli di voi avranno ascoltato sicuramente mercoledì scorso la prima parte appunto dedicata alla fantascienza, e quindi vi avevo già annunciato che, come è ovvio, dopo una prima parte ce n'è una seconda. Non ce ne sarebbero da fare almeno un altro milione, però vabbè, noi ci siamo modeste e ci fermiamo su due sole. E ho parlato al femminile plurale non perché sono schizofrenica, a volte sì, ma non oggi, ma perché abbiamo un ospite importantissimo e ve l'avevo già preannunciato, una super VIP beta direttamente da Marte. Esatto. Sono qua a deliziarvi questa sera, a fare due chiacchiere con voi. Esatto, anche perché vi dobbiamo svelare, abbiamo deciso di fare outing e vi sveliamo che effettivamente a questi microfoni avete l'onore o il peso di ascoltare, a seconda, dipende da cosa, ascoltare praticamente la metà di tutto l'organico di Ruggine, della rivista di Ruggine, e quindi in effetti, vabbè, non è la metà proprio piena matematica, però insomma diciamo una buona parte, che non è che proprio siamo i milioni. E quindi in qualità anche di appunto autrici di Ruggine, curatrici di questa rivista autoprodotta che da ormai diversi anni si occupa di racconti, fantascienza, letteratura fantastica e un po' tutto questo mondo. E comunque muove da questo mondo. Esatto, e insomma diciamo che un po' ce l'accogliamo di parlare di fantascienza, è un po' il nostro in effetti. Siamo titolate, siamo blasonate. E quindi, allora, con Beta oggi vi parleremo, la prima parte, se ve lo ricordate, se ci avete, ma ovviamente ci avete ascoltato, la prima parte vi abbiamo un po' parlato di cose, una fantascienza un pochino anche più classica, più anche giocosa, i mostri, avevamo fatto sentire i Misfits, anche dei pezzoni, devo dire, però insomma la fantascienza un po' più ridente e giocosa. E ve l'avevo già detto mercoledì scorso e oggi rispettiamo la promessa, vi parliamo di una fantascienza un po' più ombrosa e un po' più anche contemporanea, che non è più quella solo degli anni 50 e 60, ma quella che poi prende spunto da Ballard, Barrocks, se ne potrebbero citare tantissimi altri, per poi arrivare al cyberpunk di Gibson, Sterling e quant'altro. E quindi per affrontare questo argomento che è bello grossino, abbiamo deciso di spezzare la puntata in due filoni. Ci piace spezzare le cose in due. Certo. La trasmissione si fa in due, sempre il due, numero ricorrente. Quindi partiamo prima dalla fantascienza un po' più classica, per legare a quello che abbiamo detto mercoledì scorso, quindi dagli alieni alla space opera, diciamo, per arrivare poi alla dilatazione di questo spazio e dei suoi protagonisti, e quindi al cyberpunk. Quindi vi racconteremo lo spazio intergalattico, l'inner space, poi ballardiano, e il cyberspazio. E non so se già hai delle perle da dirci, se no facciamo sentire subito il primo pezzo. Facciamo sentire il primo pezzo e rimanete sintonizzati che abbiamo un sacco di cosine da dirvi. Ah, non vi ho detto che il pezzo che avete appena sentito, il pezzone trash che vi abbiamo appena propinato, era dei Prism, Spaceship Superstar, come si intuiva. Del 1977. Esattamente. Perché lo leggo, eh? No, chiaro, anch'io leggo tutto, è ovvio. È una band canadese di cui ignoravo assolutamente, e stavo anche bene, insomma. Però vabbè, era giusto metterlo. È il primo single del primo album, se vi dovesse venire voglia di andare a sentire, non so perché, magari invece se vi piaceva, boh, lo sentite. E ora invece vi facciamo sentire Steve Miller Band, un pezzo ancora più antico, perché è del 1969, dall'album Brave New World. Il pezzo si intitola Space Cowboy. I'm told you about living in the U.S. of A. Don't you know that I'm a gangster of love? Let me tell you people that I found a new way. And I'm tired of all this talk about love. And the same old story with a new set of words about the good and the bad and the poor. And the times keep on changing, so I'm keeping on top of every fat cat who walks through my door. I'm a space cowboy, bet you weren't ready for that. I'm a space cowboy, I'm sure you know where it's at. Yeah, yeah, yeah, yeah. Born on this rock and I've been traveling through space since the moment I first realized what all you fast-talking cats would do if you could. You know I'm ready for the final surprise. There ain't no way around it, ain't nothing to say that's gonna satisfy my soul deep inside. All the prayers and surveyors keep the whole place uptight while it keeps on getting darker outside. I'm a space cowboy, bet you weren't ready for that. I'm a space cowboy, I'm sure you know where it's at. Yeah, yeah, yeah, yeah. Questo era Space Cowboy degli Steve Miller Band. E proseguiamo nel nostro viaggetto e approdiamo al primo album dei New York Dolls. È un pezzo che non tutti forse conosceranno perché non è super famoso, non è di quelli che vengono suonati sempre, Looking for a Kiss, eccetera. È un pezzo che si chiama Lonely Planet Boy, il primo album dei New York Dolls, quindi appunto il 1973, e ribadisco 73, cioè veramente all'inizio di tutto. E i New York Dolls, come del resto gran parte del glam rock, ne abbiamo parlato mercoledì scorso, quindi non vi tedierò ulteriormente, New York Dolls appunto parlano spesso di alieni e di mondi lontani. Provate ad ascoltare questo pezzo e ascoltate anche le musiche del Rocky Horror Picture Show, vi ho fatto sentire già mercoledì scorso un pezzetto, ma insomma qualsiasi altro pezzo tratto dal Rocky Horror è giusto e adatto. E queste due, cioè sia il Rocky Horror che questo pezzo dei New York Dolls, sono nate praticamente contemporanee, allo stesso anno, anche se sembrano molto più attuali, ma in realtà sono del 73 appunto. Parlano di alieni ambigui e malinconici e di come sentirsi soli e bellissimi in un mondo che ti risulta estraneo e respingente. E mentre cantavano queste cose pieni di glitter, di luccichine, di rossetti sbavati, davano il via a una scossa epocale. E quindi ora ve lo sentite, Lonely Planet Boy, New York Dolls. It's hard, it's so hard, and it's a lonely planet joy when in the sun from your other boys, that's when I'm a lonely planet boy. I'm trying, baby, for your love. Whoa, whoa, whoa. Yeah. E con questi suoni un po' dissonanti, storti e stonati, erano i New York Dolls, appunto, e il pezzo era Lonely Planet Boy. E la dilagante diffusione della tecnologia, che insomma sappiamo bene di cosa stiamo parlando, vivere in questo nuovo strano mondo porta gli esseri umani più, obiettivamente quelli più intelligenti, a farsi delle domande e a cercare delle forme di adattamento al nuovo ambiente. Ci si sente spaesati, straniti e non si riconosce più noi stessi. In questa generale crisi di identità, l'immaginazione, ecco che ci arriva in soccorso e ci tramutiamo in alieni, robot, cyborg, umanoidi e quant'altro. E diciamo che l'immaginazione in questo mondo che non ci piace e che è tutto da rifare è un po' la chiave di volta di tutta la fantascienza, anche della fantascienza che si diceva all'inizio, nella prima puntata, anche della, definiamola così, space opera. Sì, anche perché infatti anche quella era, perché comunque è un'evasione, più metaforica, un'evasione, quindi si va dagli negli spazi intergalattici, dagli alieni simpatici glam che ci verranno a salvare, anche a poi quello che sarà appunto il genere, il cyberpunk, dove è la nostra, è l'identità stessa, insomma, è l'individuo che si tramuta in qualcosa d'altro, utilizzando quelli che sono proprio anche gli strumenti di questa società, no? Che diventa sempre di più in quegli anni, l'avvento, no? Inizia la società mass mediatica e dei consumi, quindi post-industriale, e quindi abbiamo queste strane creature che popolano l'immaginario di quell'epoca, soprattutto abbiamo detto Ballard, ma possiamo ricordare anche Burroughs, possiamo ricordare anche Dick, insomma, autori di spessore. E possiamo ricordare anche, perché no, Neuromante, comunque il libro, diciamo, principe, no? Il libro che perlomeno a me ha fatto scoprire Gibson. Penso anche a me. E chi l'ha letto non potranno ricordare Case, soprattutto Molly, quindi e i loro corpi, che non sono più corpi umani, non sono corpi robotici, sono appunto corpi cyborg. E sono corpi cyborg autoprodotti, è proprio il do it yourself ante litteram, nel senso che non a caso questo filone letterario si chiama cyberpunk, perché appunto questi corpi, queste identità frammentarie vengono reinventate e ricostruite con tutto quello che è necessario per essere liberi, per dare contro alla, diciamo, alla società che ci vuole veramente robot. Con tutto quello che si trova nei cassonetti, sia a disposizione, sì, dalle cose belle alle cose meno belle. È semplicemente attraverso l'uso risignificare, insomma, appunto in questo senso ricreare l'identità e anche un'identità collettiva, appunto. E questa cosa di, appunto, ricrearsi un'identità abbracciando anche il mito futuristico, ma in senso molto spesso distopico o comunque ironico, lo fanno, insomma, è un'idea che hanno avuto in diversi, dobbiamo dircelo, perché evidentemente era una buona idea, sì. No, non si copiavano a vicenda. E uno dei gruppi che l'ha fatto, e forse l'ha fatto bucando lo schermo particolarmente, sono i Daft Punk. Daft Punk che, insomma, rispetto ad altri gruppi che hanno fatto cose simili, magari anche migliori, loro sono diventati più famosi, sono obiettivamente un gruppone mainstream. Hanno usato meglio le loro armi. Evidentemente è andata così. E in ogni caso, parlando di tutto ciò, non possiamo non farveli sentire. I Daft Punk, in un'intervista, uno di loro, no, non mi ricordo assolutamente chi, ma in un'intervista di qualche anno fa, degli inizi, di quando erano ancora all'inizio, dissero: ci fu un incidente nel nostro studio, stavamo lavorando con il sampler e questo esattamente alle 9.09 del 9 settembre 1999 esplose. Quando riprendemmo conoscenza ci accorgemmo che eravamo diventati dei robot. E questo è appunto Robot Rock del 2005 del disco Human After All. E godetevelo. Bad, bad, bad. Questi erano, l'avrete riconosciuti anche se vi siete collegati solo adesso, erano i Daft Punk con Robot Rock. Allora, eravamo sui robot, gli alieni e tutte queste cose alienate, ma torniamo, approfondiamo meglio la questione aliena. Gli alieni, i marziani, gli uomini verdi, eccetera. Il mondo alieno, oltre a fornirci una metafora, diciamo così, sullo straniamento da noi stessi, ci offre anche un'affascinante via di fuga da un mondo che obiettivamente è parecchio, parecchio brutto. Per ragioni ampiamente documentate altrove, la vita intelligente sulla Terra si estinse allo spirare del XX secolo. Tra gli indizi che ci sono rimasti, il seguente programma di una giornata di trasmissioni televisive, diffuse il 23 dicembre 1999, in una città non identificata dell'emisfero settentrionale, offre un'intrigante possibilità interpretativa sulle origini del disastro. Ore 6. Porno disco. Svegliarsi con immagini di sesso hardcore per lui e per lei, al ritmo di disco beat. Ore 7. Previsioni del tempo. I microclimi del giorno nelle hall, nei supermercati e nei complessi per uffici della città. L'Intol International promette una spruzzata di neve pomeridiana come assaggino del Natale. 7.15. News, sommario. Cosa ti riservano i nostri giornalisti? Una miniguerra? Un terremoto sintetico? O un ponte zona di carestia / soccorsi? 7.45. Ora di colazione. Golosi pranzetti a cui assistere mentre ti sbaffi la cellulosa dietetica. 8.30. Speciale pendolari. Il gioco dell'ora di punta. Quanti culi riuscirai a palpare? Quante sberle a rifilare? Ore 9.30. Il gioco dei viaggi. Visiterai i più grandi aeroporti e parcheggi sotterranei del mondo. 10.30. Massaie di ieri. Ricostruzioni nostalgiche dei lavori di casa del passato. 7ª puntata. L'aspirapolvere. Ore 11. Guerre aziendali. Telenovele sulle guerre per bande negli uffici. Ore 12, notizie flash. La rete prevede uno scoop su un nuovo serial killer, oppure su una tossina alimentare letale. 13, in diretta dal Parlamento, 12ª puntata, il deputato alcolizzato. 13.30, dita nel naso, programma di igiene per i più piccini. 14, accarezzami, soft porno per la pennichella. 14.30, gli spot preferiti. Il pubblico vota le repliche delle migliori pubblicità del passato. Ore 15, la scelta della casalinga. Stupro, come prepararsi psicologicamente? 16, countdown, gioca a premi dove i concorrenti contano alla rovescia a partire da 1.000.000. 17, notizie flash, un disastro aereo o un crack finanziario? Gli spettatori scelgono. Ore 18, la virtual reality TV presenta l'assassinio di Kennedy. Il casco della realtà virtuale ti porta a Dallas nel Texas il 22 novembre 1963. Potrai sparare con il fucile dell'assassino dalla finestra del magazzino di libri. Poi potrai sedere tra Jack e JFK nella limousine presidenziale mentre la pallottola affonda. Solo per gli abbonati, ripeto, solo per gli abbonati speciali, il tessuto cerebrale del presidente ti schizza in faccia. Oppure asciugherai col tuo fazzoletto le lacrime di Jackie. Ore 20, ora di cena. Altri piatti ghiotti mentre ti ingolli la cellulosa dietetica. Ore 21, scienze d'oggi. C'è vita dopo la morte? Microelettrodi raccolgono i debolissimi impulsi dei cervelli defunti. I parenti pongono domande ai trapassati. Ore 23, speciale teleorgasmo. La virtual reality TV ti porta dentro un'orgia. Scoperai con le più grandi stelle del cinema. Stasera Marilyn Monroe e Madonna, oppure Warren Beatty e Tom Cruise. Solo per gli abbonati speciali, esperienze di transessualismo, pedofilia, sifili dal terzo stadio, stupro di gruppo e bestialità. Scelta, pastore tedesco o golden retriever. Ore 1, notizie flash, stasera incidente aereo a sorpresa. 2, ora di religione, immagina di essere morto. Preti e neurologi simulano un duplicato realistico della tua morte. Ore 3, il re della notte. Sarà la tua la finestra della camera da letto da cui penetrerà il telestupratore? 4.15, sesso per l'insonne, soft porno che ti culla per addormentarti. Ed infine, ore 5, l'ora caritatevole, gioco a premi in cui i concorrenti del terzo mondo chiedono l'elemosina. E questa cosa geniale che ho letto era Guida alla morte virtuale, apparso in Interzone il febbraio del 1992 e scritto da James J. Ballard. Per Research, che è uscito al tempo, noi abbiamo l'edizione super figa, yes. Che è di Wendy in realtà, sì, ha confessato. È una confessione pubblica in realtà. Vabbè. Che è della Shake, quando la Shake ancora era nei Succenci e aveva l'esclusiva su Ballard, accidenta a Chris e a loro. E a chi lo prega. Ecco, sì. E quindi niente, se vi avete la fortuna di avere l'edizione originale, bravi, se no la potete ritrovare probabilmente, mi sembra, se non sbaglio, che l'abbiano rieditata. Sì, l'hanno rieditata. Sempre la Shake, vabbè, attuale. Però insomma anche quella del tempo secondo me era molto più bella, l'edizione con tutto un sacco di foto e illustrazioni strafighe. Va bene, questo era il mondo bruttissimo da cui vogliamo uscire, scappare, e arriviamo agli alieni. Gli alieni quelli veri, perché ora parliamo di Roswell. Cazzo, dovrete averne sentito parlare. L'incidente di Roswell è un evento verificatosi a Roswell, nel New Mexico, negli Stati Uniti, il 2 luglio del 1947, scoperto il 7, quindi qualche giorno dopo, comunicato e poi smentito, l'8, quindi giorno dopo. E questo incidente è consistito nello schianto al suolo di un pallone sonda, così si dice, appartenente alle United States Air Force. Questa è la versione che trovate su Wikipedia e che ormai è quella ufficiale, diciamo. La vicenda divenne famosa in realtà per le prime notizie divulgate dai giornali e tuttora sostenute da ufologi e appassionati dell'ufologia, secondo cui si sarebbe invece verificato lo schianto di un UFO e il presunto recupero di materiali extraterrestri, tra cui cadaveri alieni. Cadaveri alieni recuperati appunto da militari statunitensi molto solerti a ripulire tutto con la scopetta. Il primo comunicato stampa, appunto, che vi abbiamo detto è stato del giorno dopo il ritrovamento, l'8, è stato pubblicato dalla base aerea di Roswell e parlava di un, in realtà, parlava di un disco volante. Diceva, è stato trovato un disco volante a Roswell, nella cittadina, no? Messico, bla bla bla. Se la sono lasciata sfuggire. In realtà poi subito hanno ritrattato, il giorno dopo hanno detto no, abbiamo sbagliato, hanno smentito tutto, e la prima dichiarazione ufficiale dell'autorità statunitense fu che appunto si trattava di un semplice pallone sonda. In seguito, negli anni 90 addirittura, quindi 50 anni dopo, sì. Una commissione parlamentare istituita appositamente, perché insomma la cosa era montata parecchio, era, tra l'altro negli anni 90 ci fu anche la fantastica serie televisiva, il telefilm Roswell, che noi sì. figli degli anni 90 sì. ci ricorderemo, e una commissione parlamentare disse, basta, quello marcato sul fuoco, quella è la verità, che il pallone sonda, sì, era un pallone sonda di proprietà degli United States Air Force e che faceva parte di un programma militare segreto, per questo non si poteva dire, che doveva monitorare eventuali test atomici sovietici. È un po' bizzarra come cosa, obiettivamente, letta così, però vabbè. Decidete voi se crederci o no. Infatti sono americani, che si deve fare? Cioè, oltretutto Roswell, non so se avete visto, ma è uno sputo, è come dire, sì. non lo so, a Campi Bisenzio c'è, non so, oltre all'inceneritore, alla pista per l'allargamento della pista dell'aeroporto, spuntano anche gli alieni. Cioè, spuntano gerani con le zampe. Esatto, cioè, cazzo, cioè, ne parli per decenni. Magari così non fanno neanche l'inceneritore. Questo potrebbe essere un ottimo spunto per il comitato No Inch. Ve lo lanciamo, vabbè, vedete voi. E, vi abbiamo raccontato tutta questa storia bizzarra per farvi, come scusa, per farvi ascoltare un pezzone dei Pixies che si chiama per l'appunto Motorway to Roswell. dall'album Tremble le Monde del 1991. Questi appunto erano i Pixies, Motorway to Roosevelt, Il prossimo pezzo lo dedichiamo a una bionda speciale che sta vivendo un piccolo, neanche troppo piccolo, incubo e inferno personale, e quindi gli vogliamo dedicare, in realtà gli potremmo dedicare tutta la trasmissione, la puntata, tutte le trasmissioni da qui all'infinito, ma se proprio dobbiamo scegliere un pezzo, abbiamo scelto un pezzo che sia vagamente meno devastante. Sì, che la faccia volare via per un pochino da dove ce l'hanno confinata, insomma. Esatto, perché sappiamo che è in un posto brutto e non ci deve stare ancora a lungo, basta, e quindi deve andare via in un posto parecchio, parecchio più interessante. Per farlo deve prendere un disco volante e quindi ascolterà per ispirarsi questo pezzo che è di Billy Reilly. E il titolo è Flying Saucer Rock and Roll, e non fate come noi che pensiamo sempre alle salsicce volanti. No, Flying Saucer sono i dischi volanti, non le salsicce volanti, anche se comunque è una bella immagine lo stesso. Certo. È un pezzo del 1957 e in realtà è un pezzone, anche se sembra una cazzata, però c'è Ronald James alla chitarra, Jerry Lee Lewis al piano, niente po' di meno, scusate, che scusate se è poco, Mervyn Peppers al basso, Jimmy Van Heaton alla batteria, Skins alle pelli, e quindi basta, bionda, sentiti sto pezzo e vola con noi, preparati a volare con noi. Vai. ciao. Well, the news of the Southern men are flying around. I'm the only one that's seen it on the ground. First thing I seen when I saw it land, the cats jumped out in the front of the band. I saw the rock and roll. I saw the rock and roll. I couldn't understand the thing they said. It was that crazy beat just to stop me dead. Bars, brought a rock and roll all the way from Mars. Climbed on the E dopo Billy Rilly, difficilissimo da dire, Billy Lee Rilly, sciogli lingua in realtà. Dopo avete sentito, non era lui impazzito, ma erano i Melt Banana con Loop Nebula. I Melt Banana sono, per chi non li conosce, un duo giapponese, noisecore, possiamo chiamarli così, attivo dagli anni, più o meno dagli anni 90, e anche adesso continuano a essere attivi, anche se suonano un po' meno, purtroppo. Hanno fatto, in realtà hanno fatto la cosa interessante loro, al di là dei pezzoni loro, che secondo me sono bellissimi, ma è che hanno fatto un sacco di cover. E sono una più bella dell'altra perché sono fatte con tutta questa attitudine che avete sentito in sto pezzo. Ad esempio Tintarella di Luna hanno rifatto, di Mina, o Surfing USA, oppure gli Who, gli Stooges, i Damned, ma 2000 proprio ne hanno fatte, molto divertenti. Loop Nebula è un pezzo contenuto in una compilation del 2015 che si chiama Return of 30 Hedgehogs. Non è neanche facilissimo da trovare perché va trovato appunto dentro questa compilation. È un pezzo che parla, ovviamente, dato il titolo, di una nebulosa, ma ci serve per fare un aggancio alla seconda parte della nostra puntata, perché l'atmosfera dei Melt Banana sono direi veramente perfette per qualsiasi libro o film cyberpunk ben riuscito. Ciò in cui credo. Credo nel potere che ha l'immaginazione di plasmare il mondo, di liberare la verità dentro di noi, di cacciare la notte, di trascendere la morte, di incantare le autostrade, di propiziarci gli uccelli, di assicurarci la fiducia dei folli. Credo nelle mie ossessioni, nella bellezza degli scontri d'auto, nella pace delle foreste sommerse, negli orgasmi delle spiagge deserte, nell'eleganza dei cimiteri di automobili, nel mistero dei parcheggi multipiano, nella poesia degli hotel abbandonati. Credo nelle rampe in disuso di Wake Island, che puntano verso il Pacifico della nostra immaginazione. Credo nella morte del domani, nell'esaurirsi del tempo, nella nostra ricerca di un tempo nuovo, nei sorrisi di cameriere d'autostrada e negli occhi stanchi di controllori di volo in aeroporti fuori stagione. Credo nella pazzia, nella verità dell'inesplicabile, nel buon senso delle pietre, nella follia dei fiori, nel morbo conservato per la razza umana dagli astronauti di Apollo. Credo nel nulla. Credo nei voli, nell'eleganza dell'ala e nella bellezza di ogni cosa che abbia mai volato, nella pietra lanciata da un bambino che porta via con sé la saggezza di statisti e ostetriche. Credo nella gentilezza del bisturi, nella geometria senza limiti dello schermo cinematografico, nell'universo nascosto nei supermarket, nella solitudine del sole, nella loquacità dei pianeti, nella nostra ripetitività, nell'inesistenza dell'universo e nella noia dell'atomo. Credo nella luce emessa dai videoregistratori, nelle vetrine dei grandi magazzini, nell'intuito messianico delle griglie del radiatore delle automobili esposte, nell'eleganza delle macchie d'olio sulle gondole dei 747 parcheggiati sulle piste catramate dell'aeroporto. Credo nella non esistenza del passato, nella morte del futuro e nelle infinite possibilità del presente. Credo nei prossimi 5 minuti. Credo nella storia dei miei piedi. Credo nell'emicrania, nella noia dei pomeriggi, nella paura dei calendari, nella perfidia degli orologi. Credo nell'ansia, nella psicosi, nella disperazione. Credo nelle perversioni, nelle infatuazioni per alberi, principesse e primi ministri, stazioni di rifornimento in disuso più belle del Taj Mahal, nuvole e uccelli. Credo nella morte delle emozioni e nel trionfo dell'immaginazione. Credo in tutti i bambini. Credo nelle mappe, nei diagrammi, nei codici, negli scacchi, nei puzzle, negli orari aerei, nelle segnalazioni d'aeroporto. Credo a tutti i pretesti, credo a tutte le ragioni, credo a tutte le allucinazioni, credo a tutta la rabbia. Credo a tutte le mitologie, ricordi, bugie, fantasie, evasioni. Credo nel mistero e nella malinconia di una mano, nella gentilezza degli alberi, nella saggezza della luce. Mamma mia, anche noi ci crediamo un sacco. Sì, c'ho i brividi e non è il freddo. E questo appunto era sempre il nostro buon vecchio Ballard. E questo non è nemmeno citato da dove è preso, è semplicemente ciò in cui credo. Buttata lì. Avrà così. Scritto un attimo. Non l'ho letto tutto, l'ho saltato, è molto più lungo. E era così, insomma. Personaggino. Personaggino, un altro di quei personaggi che ci mancheranno un sacco. Sì. Chissà cosa avrebbe detto, mi chiedo, delle elezioni di Trump, mia, visto davvero. Che ne appunto in un libro famoso, che poi sono una serie di racconti che poi sono diventati la mostra dell'atrocità, c'è appunto un racconto così, con quel dico e non dico, che si chiama Perché voglio fottere Ronald Reagan, e dove appunto a 15 anni prima, insomma, vede lungo e... diciamo così, prevede che Reagan diventerà, la butta lì, ma ci prende, presidente degli Stati Uniti, insomma. Lui sembrava di aver detto una cazzata. Infatti, anche Trump sembrava una cazzata, invece visto no. Com'è. No. E perché appunto, come avrete intuito, vi vogliamo parlare un po' di Ballard, approfondire questo autore che ci è tanto caro. E per farlo, siccome appunto Slick Chick parte sempre da degli spunti musicali, siamo partiti dai Joy Division questa volta con un pezzone che si chiama Atrocity Exhibition, appunto la fiera dell'atrocità, tradotto in italiano, perché appunto è proprio obiettivamente, cioè senza possibilità di dubbio, ispirata all'omonimo romanzo, sì. Romanzo raccolta di racconti, sì. Raccolti di spunti, di sprazzi, sì. Di Ballard del 1970, Atrocity Exhibition appunto. Closer è l'ultimo disco registrato dai Joy Division, ahimè, prima della morte di Ian Curtis. È particolarmente struggente sentirlo, infatti, perché si capisce bene quello che aveva nel cervello, o perlomeno si intuisce. Esatto. Il romanzo di Ballard, La mostra delle atrocità, è ambientato in una clinica psichiatrica nel quale ogni anno i medici organizzano una mostra di opere realizzate dai pazienti, alla quale però gli internati ovviamente non sono ammessi. Certo. È chiaro, è ovvio. La struttura del romanzo è proprio una sorta di mostra, quindi, in cui esporre gli strani e ricurvi mondi dentro ciascun paziente. Gli avvenimenti del mondo, trasmessi dalla televisione e dai mezzi di comunicazione di massa, invadono il mondo interiore, l'inner space appunto dei protagonisti, e lo destrutturano. E Closer, per riallacciarci ai Joy Division, viene registrato nel marzo del 1980 in fretta per poi partire per il primo tour in America, ma appunto due mesi dopo, il 18 maggio, il giorno prima della partenza per il tour, Ian Curtis muore suicida. Quindi c'è un forte legame, anche strano, ma c'è con l'America. E oltre a cosa ne avrebbe pensato di Ballard dell'America di oggi, mi viene da pensare anche che cosa avrebbe visto, che cosa avrebbero visto in America gli occhi di Ian Curtis, che evidentemente era così pieno delle visioni di Ballard. E appunto, sì, le visioni di Ballard, che sono proprio, come abbiamo visto anche e come sentirete poi da questo pezzo di Joy Division, che ci sta veramente da Dio, le visioni di Ballard, io ho letto questa cosa perché le sintetizza un po' tutte, dai suoi incubi alle sue ossessioni a quello che lui chiama appunto il media landscape, di cui vede la nascita, e che si iscrive letteralmente nel nostro sistema nervoso centrale, e in questo senso la fantascienza di Ballard è una fantascienza che volge letteralmente le spalle a quello che abbiamo invece visto all'inizio trasmissione, quindi allo spazio intergalattico, alla space opera in sé, per rivolgersi invece alla Terra, e lui stesso dichiarerà che la fantascienza dovrebbe occuparsi della Terra, perché la Terra è l'unico pianeta veramente alieno. E quindi Non è che aveva torto per niente. E quindi nulla. Hai detto niente. E quindi con queste perle di Ballard vi lasciamo a questo punto ascoltare, vi abbiamo già detto troppe cose, e vi facciamo godere questo pezzo dei Joy Division, che è l'unico pezzo un po' lunghetto della scaletta, che tra l'altro non prevede tantissimi altri pezzi, quindi insomma siamo già a tre quarti. E dura circa 6 minuti, quindi godetevelo. Atrocity Exhibition, The Joy Division. Thank you. Questi erano i Joy Division, inconfondibili, e adesso continuiamo con un altro gruppo molto influenzato dalla fantascienza, i Sonic Youth. I Sonic Youth hanno appunto attinto tantissimo proprio dalla fantascienza e anche, forse anche parecchio di più, dal cyberpunk. Sister, ad esempio, è un album, uno dei primi album del 1987, che è quasi completamente dedicato a Philip K. Dick, fin dal titolo in realtà, perché Sister è la sorella gemella di Dick, morta appena dopo la nascita, che in realtà basta leggere la biografia, sì, e lui ne era... Scusate se rido. Perché non era proprio un uomo felice. Quando butta bene, Mamma mia, fin dall'inizio. Sì. E il disco, in effetti, a parte riferimenti precisi parola per parola, è popolato da ossessioni e allucinazioni molto simili a quelle di appunto questo meraviglioso scrittore, che non viene mai citato abbastanza e soprattutto, purtroppo, viene spesso usato da Hollywood per fare dei film orrendi. Che comunque commentavamo questo pomeriggio, che comunque va sempre bene, nel senso che anche se i film fanno schifo, c'è Tom Cruise, quasi sempre, tra l'altro. Sì, che chissà perché, che c'ha una faccia. È così, è un'icona, Maria, si sa, forse sì. E però, appunto, anche se i film fanno schifo, comunque sia l'atmosfera rimane, le idee rimangono, e quindi alla fine, meglio... Sì, rendono giustizia perlomeno all'immaginario, ecco, mettiamola così, creato da Dick, sì. E infatti, meglio alla fine quello di un altro film fatto da degli sceneggiatori F5 di merda. Sì. Vabbè, almeno quella, l'idea alla base era bella, ecco. E detto questi commenti di cinematografia spicciola nostra... Cinematografia in pillole, a slip chick. Esatto. Torniamo ai Sonic Youth, va che è meglio. Allora, i Sonic Youth in realtà, oltre che a Philip K. Dick, si fanno ispirare moltissimo anche da William Gibson. E sono l'aggancio, appunto, che ci permettono di parlarvi di Gibson, per l'appunto. Uno dei mostri sacri del cyberpunk. Se non avete mai sentito dire chi è William Gibson, o siete nati troppo tardi, o siete nati troppo presto, o non siete nati, probabilmente. Non siete nati, infatti, oppure siete pazzi, non lo so. Comunque, insomma, aggiornatevi. Le atmosfere veloci, elettriche, tipiche del cyberpunk, le ritroviamo un po' ovunque nella musica dei Sonic Youth. Che è caotica e ossessiva. Alcuni brani però sono proprio dichiaratamente un omaggio a Gibson, ad esempio The Sprawl. Lo sprawl, sì, è un termine che in urbanistica vuol dire, indica la dispersione urbana, dove praticamente gli agglomerati urbani crescono in modo caotico in senso orizzontale. In realtà poi vedremo, Gibson, sì, l'espande in maniera diversa, l'espande in verticale, ma vabbè, diciamo che ha delle ancore anche nell'attualità, nel mondo, come gran parte del lavoro di Gibson, sì, ha delle ancore molto solide nella realtà di ora. In diversi libri di Gibson le città si sono ormai fuse insieme in un modo indistinto e lo sprawl si è inglobato città su città, e quindi, insomma, citare The Sprawl in un pezzo musicale non è niente affatto casuale. Un altro pezzo che omaggio a Gibson è Pattern Recognition, che è il titolo di, in realtà, un parecchio più recente romanzo di Gibson, che in italiano viene tradotto come L'Accademia dei Sogni. E su questo tema, appunto, che diceva Omari, delle città, caro a Gibson e a tutto il cyberpunk, possiamo anche dire che è un po' un leitmotiv appunto della, come l'identità, l'altra cosa è lo spazio urbano, perché lo spazio umano dove gli esseri umani di solito vivono sono proprio le città, che nel cyberpunk, in particolare appunto in Gibson, il neuromante, per chi l'ha letto e per chi non l'ha letto, Siba City, che è appunto un inurbamento metastatico quasi, che si sviluppa in verticale con esseri umani che forse sono già cyborg, che vivono in cubicoli e che in realtà poi non vivono, la loro vera vita non si svolge nella città, ma si svolge poi nel cyberspazio, nello spazio della rete. E dicevo, questo tema delle città, caro al cyberpunk, è caro un po' a tutta la fantascienza, no? Perché è proprio il nostro spazio di vita, e quindi dal cyberpunk alle città invece che non finiscono mai, come in De Filippo. Giusto, perché un altro autore che potremmo citare è Paul Di Filippo, con il romanzo Un anno nella città lineare, che è, mi sembra che sia nella trilogia steampunk, ora ho questo dubbio. Comunque è un racconto molto interessante, perché a differenza appunto di Gibson, che le sviluppa più in verticale, lui sviluppa questa città che è quasi circolare, è quasi un anello infinito, però dove non si capisce dove è l'inizio, dove è la fine, che si percorre in treno, e tu continui su questo treno, ogni tanto riscendi, riprendi il treno, e però non capisci dove sei, perché è tutto molto confondente. E anche in Ballard, cioè, se non erro, perdonatemi se sbaglio, c'è un racconto, uno dei tanti, sulla che è proprio La città infinita, e appunto è questa città, il protagonista non arriva mai a destinazione, e anche in Dick c'è, cioè, nella penultima verità, questa città sotterranea, che poi è la metafora del fatto che noi non arriviamo mai alla verità, che appunto il sistema ci presenta sempre delle verità che non sono e a cui noi crediamo, e quindi delle esistenze fasulle, delle identità fasulle, dei valori appunto che fasulli. E questo tema delle città, insomma, da parecchio da pensare, ed è, ripeto, un tema caro alla fantascienza, perché legge nello spazio antropologico, legge mutamenti appunto di tutto quello che è il sistema, che poi è diventato il sistema di produzione capitalistico, post-capitalistico, globale, e tutto, insomma, quello che viviamo oggi. È un tentativo di descrizione dei cambiamenti in atto, delle brutalità anche in atto, nascoste dietro una lucente patina al neon, una lucente patina di ricchi premi e cotillon della società dei consumi, per indorarci appunto la pillola amara. Molto più artificiale. E sfruttante, che so che è un termine che non, ora mi cazzerà l'Accademia della Brusca, che non si usa, ma si capisce. No, tra l'altro questo ci permette di riallacciarci anche all'inizio della puntata e alla scorsa puntata, dove parlavamo di corpi artificiali e di reazione individuale all'artificialità, alla tecnologia e tutto. In questo caso arriviamo a la reazione di un'intera città, cioè non solo è il corpo che diventa artificiale e che si muta e si deve adattare a un nuovo mondo, una nuova, appunto, un nuovo modo di essere, ma intere città e interi spazi fisici. E addirittura, infatti, la città che è proprio vista come un organismo vivente. Sempre Ballard, c'è un racconto in cui le case, che poi anche qui ha anticipato molto cose che per noi adesso sono normali, le case che si chiamano psiche qualcosa, non mi ricordo, insomma, reagiscono alle emozioni delle persone che vi abitano dentro, e fisicamente, nel racconto, fisicamente gli ambienti della casa si spostano, si colorano o si girano a seconda appunto dell'umore degli abitanti. Potrebbe essere l'evoluzione della domotica. Sì. A me già fa paura normalmente, figurati se sì, perché poi sarebbe sempre nera, ti immagini, sì. Casa mia sarebbe, vabbè. Casa mia senza soffitto, insomma, quindi va bene, se piove è casino. No, non mi sembra il caso. E questo appunto era qualcosa che ci permette di parlare di piccole... piccole tratti, pennellate in realtà del cyberpunk, perché ce ne sarebbe da dire veramente tantissime. Forse faremo altre 10 puntate, ora ci pensiamo. Ve le beccherete, sì. Magari una stagione, il cyberpunk nella primavera. Una stagione allo sprawl. Esatto. Comunque vi invitiamo speriamo di avervi anche un po' incoraggiato e invogliato, però vi Certo. invitiamo a leggere un po' le cose di cui abbiamo parlato perché sono molto più affascinanti di quanto si possa poi raccontare effettivamente. Fare la critica a Sì. posteriori è sempre molto difficile. In realtà, soprattutto il cyberpunk, secondo me è un qualcosa che ami o odi, cioè molta gente non riesce assolutamente a leggerlo e lo capisco. Però è un qualcosa dove ti devi in qualche maniera immergere totalmente perché è un quadro astratto, caotico. Schizzoide, frammentario, Sì. veloce, un beat elettrico Sì, come ascoltare continuo, un esatto. disco noise Sì. dei Lightning Bolt, cioè qualcosa che comunque lo devi prendere per com'è e devi capire lo spirito e entrarci dentro. Non ci capirai niente, alla fine forse sì, però, ma nel mezzo non tanto. Però a noi piace, ecco, forse non l'abbiamo invogliati, forse infatti No, ora se no leggeranno. potete leggere Ruggine, facciamo così una promo. Sì, noi siamo molto meglio. Sì, No, via. diciamolo il sito, collanediruggine.noblogs.org, che troverete un sacco di cose No, meravigliose. speriamo veramente di avervi invogliato perché è un mondo che veramente merita di essere scoperto. E quindi eravamo partiti dai Sonic Youth e a questo punto ve li facciamo ascoltare, non ve ne parliamo e Certo. basta. E il pezzo che abbiamo scelto è White Cross, che è tratto proprio da Sister, il disco di cui abbiamo parlato all'inizio, appunto intitolato alla sorella gemella che Dick non ha Di mai conosciuto, di Dick. fatto, e niente, che comunque contiene un sacco di dediche più o meno esplicite all'opera di Dick. Quindi, niente, sentitevelo, White Cross, Sonic Youth. Smart enough. but my pocket calculator. Erano i Kraftwerk con Pocket Calculator che usavano anche tradurre quando andavano in giro per il mondo a fare i live in Italia. Avrei voluto sentire in giapponese, infatti. Cazzo, davvero, sarebbe stato bellissimo. E in Italia lo chiamavano, cioè proprio cambiavano il pezzo e dicevano il testo in italiano, che essendo un gran testo diceva il calcolatore tascabile. Cazzo, sarebbe bellissimo. Calcolatore. Sì, anche è più difficile è come difficile, metrica, cioè. Vabbè. E comunque loro lo facevano un po' ovunque andavano. È un pezzo del 1981 tratto da Computer World. Per la registrazione di questo brano, i Kraftwerk, l'avete sentito, essendo il 1981 e non il 2016, hanno utilizzato degli strumenti musicali portatili, tra cui ad esempio una tastiera giocattolo della Mattel e una calcolatrice con suoni, dove ogni tasto premuto corrispondeva a un effetto sonoro. Una cosa che adesso è abbastanza ovvia, gran parte della musica elettronica viene composta così, con delle cose molto più facili e sofisticate, però al tempo insomma non era sono proprio... 35 anni fa alla fine, insomma sì, un bel pezzetto, non è che proprio era una cosa così da poco. E, e fra l'altro questi ritmi sintetici venivano fatti con dei pads che avevano fatto loro e che avevano brevettato, perché appunto se le erano fatte e costruite do it yourself, ecco, e poi vabbè, essere le brevettavano perché ci tenevano, si vede che gli si deve di, però insomma questo era. Con i Kraftwerk siamo in fondo alla scaletta, prima di lasciarvi all'ultimo pezzo, che è un altro pezzone, che potevamo, cioè non potevamo non mettere, anche se in effetti nel frattempo ce ne sono venuti in mente 200.000, sì, di altri, sì. Nel silenzio della nostra stazione radio mentre si chiacchierava, sì, cioè in regia ci consigliavano pure l'Artificial Kids del progetto del Danno, e che ci è venuto in mente troppo tardi, ahimè. Però questo è lo spunto per fare altre 20 puntate sulla fantascienza, ma sì. Non da subito, non vi preoccupate, mercoledì prossimo cambieremo argomento, non è che veramente parleremo sempre solo di fantascienza. Però, quindi, basta, siamo arrivati più o meno alla fine e vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 9, per la puntata di Slit Chic. Vi leggo, perché me lo sono dimenticato di farlo prima, vi leggo i social Wombat e vi ricordo tutti i nostri contatti a cui potete scriverci, telefonarci no, l'unica cosa che non potete fare, comunque potete insultarci o dirci cose carine, il sito wombat.noblogs.org, che si spera a questo punto vi siate tatuati sul braccio o sulla gamba dove volete, twitter.com/radiowombatfi, dove ci sono anche dei gossip e cose via via, perle molto interessanti, quindi insomma come potete perderlo. La stupida pagina Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, ma è noiosa, insomma vi consiglio il resto, e la casella di posta a cui scriverci e far sì che non sia sempre solo intasata di spam inutile, Viagra e cose stupide, posta wombat@insiberia.net. Quindi vi abbiamo detto tutto, vi salutiamo, e prima di salutarvi però vi raccontiamo cos'è l'ultimo pezzo a cui vi stiamo mandando incontro. Allora, vi salutiamo, abbiamo detto, con questo pezzone dei Radiohead che si chiama Paranoid Android, è contenuto nel terzo album dei Radiohead, quello insomma che alla fine poi li ha resi più famosi, che è Computer. E l'album è del 97, ma la cosa che volevo dire, perché l'ho scoperta oggi mentre appunto cercavo di che anno era l'album, è una cosa carina, e questo album è il primo che i Radiohead si producono da soli, quindi si autoproducono, e se lo autoproducono nel Oxfordshire, e voglio pronunciarlo così, ma soprattutto se lo producono, è buffa questa cosa, in una fruit farm, cioè in un deposito di mele, dove il produttore dell'album, tale Nigel Godrich, o Godrich, non so insomma come si pronunci, lui, che è appunto produttore e ingegnere acustico, diciamo così, acchitta, termine proprio tecnico, acchitta uno studio mobile dove registrano appunto tutto l'album. Nella fruit farm. Nella fruit farm. Hai capito? Perché effettivamente le mele sono, cioè insonorizzano anche bene. Una mela al giorno, si dice, loro una mela un pezzo al giorno. Poi sì, okay, insonorizzano, le usi come cartoni delle uova, insomma. Me la godo, e godetevela anche voi, e vi lasciamo appunto con questo pezzo dei Radiohead. Va bene, io ringrazio Beta delle preziosissime perle che ci ha dato. Certo, come no. Letture gustose, e la riavremo secondo me ben presto in studio. Che non vi libererete. Assolutamente no. E quindi niente, vi lasciamo con questo pezzo, vi salutiamo tutti e rimanete in ascolto perché dopo Radiohead, tra una ventina di minuti, perché abbiamo posticipato un pochino, ci sarà la nuova puntata di 8 Hertz. Quindi rimanete in ascolto del Wombat, mi raccomando, e tenetevi aggiornati sul sito per i podcast e le novità in palinsesto, che sono non poche. Ciao a tutti! Ciao!